759. Gelato di crema. Servitevi della ricetta numero 685, e cioè fate una crema con latte 1 litro, zucchero grammi 200, rossi d'uovo numero 8, odore di vaniglia. Sentirete un gelato squisito, mantecato e ben sodo, se saprete manipolarlo. Questa dose potrà bastare per 10 persone. Invece dell'odore di vaniglia, potete dare alla crema quella dei coriandoli, o del caffè bruciato, o della mandorla tostata. Per i coriandoli, vedi latte alla portoghese, numero 693. Per il caffè, fatene bollire a parte nel latte diversi chicchi contusi. Per la mandorla tostata, fate un poco di croccante, come quello del numero 617, alquanto più cotto con grammi 100 di mandorle e grammi 80 di zucchero. Pestatelo fine, fatelo bollire a parte in un poco di latte, passatelo ed unitelo alla crema.